certo briciola, su che andiamo, dai, che nuovo giro con qualcosa. Briciola, a certo briciola. Attenzione Brigido, ci ascolti qua. Ehi briciolina, buonasera. Buonasera, su che andiamo? Su che andiamo briciola. Beh, di riposo sì, Manuè. Ehi, a cartombare sì, oggi sì, sono cosciuto, insomma. Quanto ti capisco. Ieri cazzo ho fatto dalle 5 fino a stamattina alle 8. Cazzo c'ha soli, mamma mia, un vero cazzo che si grimbava. Ieri mi ero tutto immaginato, Manuè. E sto tenendo a casa quando inizia il caldo veramente, ce n'è da morire. No, ma io mi porto lo sdraio, l'ombrellone, e mi metto a vendere il cazzo noce di cocco. E l'unica è ghiccia, amici, vuole la bancarella, anch'io. Mi gioco la maglietta, che si vede che faccio la maglietta dei servizi. Questo sì, sono brutto. E me lo puoi sapere di Cindy, anche i Mironi, di tutto. Non manco guadagni che cosa, Manuè, di Noaggio. E che c'è un po' come assicuro, perché c'è, adesso fa un po' ci siamo fino a Marisa. Briciola. Ehi, briciolino. Ciao, Lilli. Ai, che bello. Uia. Uia. Tutto duro. Uia. Braccio tutto duro. E che abbiamo, dai. La scritta un po' di merda. Buonasera. Ma tu capisci di questo tempo. E cazzo da fare il tormento questa un'ora va. Cosa ci vuoi fare? Casino. Un casino questo. Perché c'è Natalino me? Qua, ma non sento Natalino io. E forza, se sei tutto tutto cuoco, ma ne sei, come fai a sentirmi? Ma stava parlando Manuè. Sì, ma lo senti. Oh. Sicuro sì. Oh, c'è Natalino. A me mi sembra che sei tutto cuoco, ma ne sei. Ma lo sento Manuè. Che male mi vuoi oggi? Cosa ne so, comunque sia durante una battiduia, non lo sento, buh, sento un fruscio sotto. Buh, cosa ne so, buh, io andate di vento. E qua uomo, ne questo Luca. Ma che sente Natale, altro che sta arrivando basso. Deve essere si è dimenticato i tappi nelle orecchie, è per quello che non mi sente. Ma è una carruca, dai. Tu sai? Sì, pure io lo so, lui. Oh, yeah, yeah. Vabbè, lo fa. Allora, e niente. E beh, Manuè, riposo, sì. Io sì, sì, lui. Cazzo si sei bisciuto, insomma, dare male. Dare male, dare male. Allora, i soldi mi sono stati rimborsati, ma ancora non posso acquistare. E vabbè, quando appena è. Ehi, io ce la facciamo. Casino, cazzo. Oh Luca, io ce l'ho duro, cosa devo fare? Guarda, siamo vari che venivo con un pezzo della mia. Fatti dal muro. Cazzo, ma voi siete troppo rudi, cazzo di fare? E così bello, cazzo, che lo devo cudiare al muro, boh. E se la puoi imparare in tonaco? Da giurito, se non vari che venivo con un pezzo della mia. Così la canzemmo. No, già ci arrivo io. Allora, girati a manico di baracqua. E voi vedo la motosega. Cazzo, non vi credi che c'è mio, Luca. Io ve la posso vedermi. È così bella. Cazzo, tutta truccata, quella che sta lì. Ma che c'è, cazzo. A te non ti vuoi dietro dai 2 mesi. Poi non so se è riuscito o boh, stare a casa. Non lo so. casino, cazzo. Poi così a piedi è peggio ancora, peggio ancora. Poi magari sei in macchina, ti mi dimi una birra in più, possiamo dire ti fanno di bene la patente, un casino, cazzo. Cazzo via. Invece prima mi gestivo meglio, dai. Quando ero con lei, beveva lei, ma non bevava molto, gli stava che vinello così. Mangiava la pizza, tutto quanto. Poi smetteva, beveva acqua e là, attaccavo io. E quando dovevamo rientrare, guidava lei. Se la vai in macchina, Olu. Chi? Tu. Ciao, vabbè, quella persona ricca, ma siccome serve la moglie, perché dice la sta male la mamma. Allora non bene, perché cazzo ti sei posto di bocca, cazzo sta andando. Sì, ma non ce l'ho adesso, ma dico, così è un casino. Certo, prima come quando uscivo, cioè, si alternava lei e mi alternavo io, capito? Poi magari io ne avevo qualche bicchiere di troppo e allora guidava lei. A me un giorno mi hanno fermato e l'ho bevuto, gli ho fatto vedere il tesserino della vigilanza, vari vari, che non sia ripetibile questa cosa. Sono che trovi, cazzo. Cos'è la tariffa? Ti avrei acciappato a me, ti avrei fatto il lavoretto io, perché a quelli che bevono quando guidano io gli faccio il lavoretto. No, senza palloncino glielo facevo. Guarda, se gonfiavo il palloncino io scoppiavo a casa. Proprio per quello, perché scoppia, allora cosa lo usi a fare il palloncino? A quel Luca mio io, se lo trovavo imbriaco fragico. Ho alzato il volume della radio, ho spaccato il vetro della cameretta. Uscendo, sì. Sì, ho alzato il volume della radio, stamattina ho spaccato il vetro della camera. Cioè, e va? Sì, cazzo va, che va? Che cazzo ti va te? 500. Cazzo. Vabbè, tu c'hai un vetro solo, non è doppia camera. No, è un vetro, non è doppio vetro. Sì, già questa bomba, un desiderio di racconti. Ma c'è già stato, già sarebbe stato a vibrare con la famosa cassa alta, che avevo sistemato io, l'avevi venduta. Quella lì l'avevo venduta dopo due giorni, 220 euro, l'avevo pagata 2,40, 2,60 mi era venuta, spedita. Poi che cazzo andava bene quella cassa. Visto, questo cos'è? Il potenziometro, sono un giramento di balle. Via, che ne so, queste quattro manco dieci. Quel tempo vola, ma non so stasera se uscire. Non lo so. Adesso mi devo vedere con due amiche, che ho conosciuto da poco. Sono grandette di età, una ne ha 52, 53, l'altra ne ha 55, tu vedevo la 55, ma suoniamo sul Ganna, madonna, è stata bella. Allora, già si sta in casa, io devo stare in casa perché a parte devo andare a lavorare presto domani mattina, cazzo devo uscire a sentire. Non me le presenti, Lu? Questa qua, la biondina è proprio bella, una bella donna, cazzo, bella, se vuol dire bella fine. Si è separata da poco, ha conosciuto così per caso la Vulcana in Piazza d'Italia, si sono fermati, che bello, abbiamo fatto amicizia, e dopo qualche giorno si sono scambiati il numero. Sono veramente delle belle persone, e poi sono venuto a trovarmi al produttore dove stavo lavorando. Ci siamo bevuti una birretta, ci siamo fatti due chiacchiere, purtroppo Guido, quello il padrone dello stand, io ottimo movie, insomma mi sarei rimasto a lunga chiacchierare con loro, ma veramente fa piacere chiacchierare con queste qua. Se sono persone tranquille che fa piacere parlarci, sì, ma dopo se sta lavorando ancora a bici, metti che cazzo vai. No, Giovanna, anche l'altra, ma Giovanna mi sembra di più, sembra di più, ma proprio bella, una bella donna, va, bella, bella, se posso dire, se si parla, non so come ti cazzo ha fatto male dalla sala, proprio una bella donna, posso dire una bella ganna, va. E magari la sala, da. Non lo so, comunque, bella, proprio bella. E vabbè, mi ha preso poi si partì, ma niente di speciale, Stai fa la ossa, ma che mi ha quasi smuttato dal lavoro, adesso va, dice, proteggere i fiori, si fanno trovare, ha detto. Bene, aspetta, gli faccio la doccia, mi cambio, mi profumo, tutto quanto bene, le cose, il perizoma. Ah, il perizoma ci mette. Allora, va a finire quattro fuori. Io se metto il perizoma, guai. Mi metto la conchiglia di quando andavo in palestra, io, se non me ne esce fuori. Perizoma la rovescia, Luca, si mette. No, comunque, la vedo, ma se partisca, sei una bella donna, bella, bella. Perlomeno a me piace, poi se ti una donna, una donna che si tiene conto, con l'età che ha, beh, proprio un bel sorriso, bella, è fatta bene, ecco, alta, bella. Come piacciono a me proprio. Un bel fondo schiena, ciao, wow, devi tenere un mosso di ganna, Luciano. Però la verità a me piace, ma non mi faccio avanti perché non... Si vede che è una donna che ha sofferto molto per via della separazione, tante cose. Briciola! Ma scendi su così? Ma sto uscendo, sì. Eia! Fatto 26 gradi oggi in casa. Bebù. Bebù. Garoni. E tutto va bene, siamo rovinati. Ma bene, siamo un binario 10, gambe. Oggi tre ne abbiamo. 10, sir. Yes, abbiamo vinti. Adesso siamo i colleghi, ascoltate questo monologo. Yes, camionista, vedo camionista. Non gli rispondo io a camionisti, no. Quello che ho fatto, perché scusa? Perché questo non è il canale dei camionisti. Il canale dei camionisti è il 5 e il 45. Ma cosa c'hanno? Io sono qua per la niente. Ah, stavo scherzando. Buonasera, ben sentito. È ben entrato. Natalino Alfa 1 da questa parte. Positivo, dai. Chiamo Natalino, cosa fa per Luigi, dai. K, dove sei? Da Carrefour. Negativo, Ocean. Da Ocean, ho capito. In fila per lo scarico? Anche io quando facevo il corriere l'ho fatto parecchie volte. Mi dite come sto arrivando questo citofono? Un attimo, gli amici, perché avevo un cuticino in verticale qua. Volevo sapere come sta arrivando questo citofono. Sta arrivando bene, il tuo citofono arriva benissimo qua. È positivo, Sì, quando scala qua di segnale. L'altro amico. Luca, ci sei. Volevo sapere, l'altro amico è arrivato più basso qua. E forse Manuele. Dove ti trovi, Natalino? Zona Monte Rosello Basso, da questa parte. Però sono al QTH, non sono mobile. Ma di tutto sparato qua. Sto usando 2 watt. No, io ne ho qualche pochettino ne ho. No, questi sono i watt dell'apparecchio, che si possono regolare, sono a 2 watt adesso, la verità. Potrei aumentare, ma non ce n'è bisogno. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola, prego. Attenzione, Tartarino. Stanno facendo context. Ma non fa disturbare, è un contest solo sugli Alfa Tango. Sei arrivato qua, sentito l'hai? Sì, mi hanno anche risposto, solo che è un contest riservato per gli Alfa Tango, capito? Non fanno, mi ha risposto e tutto quanto, ma mi ha detto che è riservato per gli Alfa Tango solo, capito? Se non sei Alfa Tango non puoi partecipare. Sono arrivato a Santiago Novo e comunque non c'è problema. Beh, cosa vuol dire riservato agli Alfa Tango? Cosa vuol dire? È solo per gli Alfa Tango. Quelli che non sono Alfa Tango non possono partecipare a quel contest. Sì, ma non ho capito. Questi Alfa Tango dove appartengono? Dove sono? Di tutto il mondo sono. È un'associazione Alfa Tango. Come io faccio parte della Whisky Mike, loro sono Alfa Tango, capito? Per essere Alfa Tango non so cosa tutto deve aver fatto. Buffonendi sì, non andrà bene. Ho capito, e va bene. Ma c'è Luca anche qua, a me ci dovrebbe essere. Caffa. Ah, mi hanno anche risposto, non c'è problema, ho chiamato lì e mi hanno risposto. Uno di Potenza era. Questo 484, cosa gli hai detto? 484, 165, così? No, 165 il nominativo. Non ci pone l'edificio. Che è della Sardegna, capito? Quando tu dici 165 è l'indicativo della Sardegna, che chiami dalla Sardegna, allora lo sanno già. Sì, quello sì, ma lui si chiama 484, mi sembra che era la sigla di lui. È uno Alfa Tango, 484, il numero di unità, capito? Sì, ho capito. Vabbè. Vediamo se c'è Luca. Luca? Beh, sto facendo roba a PC io, giù. Dai, ci sentiamo dopo. Ciao Luca. D'accordo. Vabbè. Ma che gusto fa? Cioè, se loro questo contest lo fanno riservato ad una certa cerchia e basta, che altra soddisfazione c'è? Perché l'hanno organizzato loro per i soci dell'Alfa Tango, capito? Siccome io non ero Alfa Tango me l'ha detto di scusare, però era un contest riservato a loro. Ho capito, ho capito. Vabbè, comunque una bella propagazione c'è, dai. C'è, dai, c'è ancora. Poi ti metti la frequenza di chiamata è 27555. Ti metti lì e chiami, qualcuno ti risponde. No, era 27655 lui. 27655 lui era. Lo so, però la frequenza di chiamata internazionale è 555, canale 12. Tu vai lì ed è il canale di chiamata internazionale. Quello già lo so, quello lì è il monitor nazionale, già lo so, sì. Già lo so, quello è sempre affollato, un casino, parla uno sull'altro, è come il canale 45, parlano tutti quanti uno sull'altro. Se vuoi parlare in ex, devi spostare oltre il 55 oppure più in basso, allora sì che riesci. Ti dicono di spostarti, infatti. Chiamano e ti dicono di spostarti, ti dicono la frequenza, no? Sì, vabbè, comunque. Si divertono pure. Andare, dai, non è un problema. Oh, yeah. Stasera non è entrato nessuno. Ma io appena acceso non... stavo chiamando a vedere se c'era qualcuno. Mi ha risposto tu. Io ero un po' in giro per il canale ascoltando, ho sentito Attino su canale 1 che stava facendo gli ex, anzi prima era sul 38, poi l'ho sentito sull'1 che stava collegando Lecce, quella zona lì, insomma, Napoli eccetera. E ora sono qua, buonasera. Oh, ciao a te, ci stiamo ascoltando negli ex poc'anzi. Comunque ti aveva risposto, tu hai detto l'hai perso, invece no, quello di Lecce ti aveva risposto poi. Sì, ciao Giulio, l'ho risposto, l'abbiamo, l'ho riagganciato. agganciato, vabbè, arrivava forte, insomma, ma non ho voglia di risalire. Più che altro stavo provando un microfono che però non va in amplificazione, anzi adesso se vi dà fastidio approfitto, lo scelte anche voi, così lo provo con un'altra radio. No, poco fa quando tu hai chiesto il microfono a quel ragazzo era bellissimo, una bellissima radio. Questo no, questo è troppo cupo, non mi piace questo, è un po' come va a strappare praticamente. Mi adesso te lo confermo anche Natalino, vai Natalino. No, sì, vabbè, è Giulio, è attaccato, è agganciato, quindi in lontananza l'ho messo lì. No, adesso cambio radio, eh. Ah, vabbè, allora adesso già è buono, già è bello adesso. Ho capito. Vai Natalino. Sì, ciao Tino, buonasera. Sta cambiando il radio, aspetta che sta cambiando il radio. Sì, ja. Se vogliamo andare a farci questo in banda laterale possiamo anche andare, mi. Come sentono la Sardegna, li vuoi vedere che arrivano loro stessi. Eccomi qua, sono di nuovo qua, Ok, sì. Già lo so, Natali, che quando sento la Sardegna hanno voglia di parlare, ma non la Giugana. Allora, ieri mi è bastato, ho fatto due collegamenti ieri, ma poi, non ne ho voglia di pensare di... che mi fa male la gola, se no, a parlare troppo. Vai, sì. Sì. Allora io, se mi date un attimino, due secondi, il tempo di cambiare il microfono, questo è il mio vabbè, è accoppiato con questa radio e credo che vada bene. Voglio provare un altro microfono, se mi date 5 secondi lo stacco, così ve lo faccio sentire e mi dite se va in amplificazione o meno. Sì, fai, non c'è problema. Oh, eccolo qua, adesso c'è un po' di amplificazione, c'è perché l'ha bello, però va a perdersi, adesso non so se va a surriscaldare o meno, c'è l'amplificazione, vero? Sì, ma è cupo, come cosa, è troppo cupa, non è la tua voce quella bella squillante che hai. Eppure guarda Giulio, i microfoni sono gemelli, quindi la coppiata con questa radio qua, sicuramente c'è qualcosa che non va in questo microfono, non so. Boh, questo non lo so, poi sento anche una specie di, non disturbo, di scariche mentre parli, cioè all'acuto della parola che dice, sento un rumorino sotto, leggero, ma lo sento, infatti vedi qua, saltano in avanti e indietro come impazziti. E fa tru scariche, sai, sotto, leggere ma ci sono... Capito? E quindi le sento anche io. Ok, sta correggiando, dove ti dica. Lo cambio. Ok, infatti l'altro prima il microfono era migliore secondo me di questo, vero Natalino? Sì, un attimo, riprendo subito. Eccolo qua Giulio, questo è il mio, vabbè, dovrebbe andare bene questo. Ne ho un altro da provare, però non so se va in amplificazione quello o meno. Come va questo? Io lo sento bene, questo lo sento bene, però non è mai quella voce squillante che ti ho sempre sentito e apprezzato. Diciamo che già va bene questo, però non è proprio la tua voce quella bella chiara, perché questo qui ha un qualcosa di corposo, io lo sento così, però è buono, non c'è che dire. Ah, aspetta Giulio, scusami, adesso ha cambiato un pochino, vero? Sì, adesso è più squillante, dai, perché era proposto di amplificazione Mickey Gain, quindi diciamo, dai, questo dovrebbe andare meglio. Sì, così va bene, così già va bene. Così va bene, sì, non c'è problema. Ti riprovo un altro allora, perché ho fatto un cambiamento di Mickey Gain. Prova di nuovo, dai, rimetti quello che avevi prima e vediamo un po'. Eccolo qua, questo è quello che avevo prima, non so se va bene o meno, sto parlando come l'altro, la stessa distanza, lo stesso tutto. Questo adesso è uguale, adesso va bene questo. Ma poc'anzi quando me l'avevo fatto sentire c'erano delle scarichette leggerissime sotto, ma c'erano, cioè come se andasse in un po' in coso, in come si dice, in strappo, in poche parole. No, questo va bene, così va bene, regolato così va bene. Sì, vedi, adesso però ho perso un po' di, credo che abbia perso un po' di amplificazione, non vedo la lancetta andare, non lo so. E quando scalda fa questo oggetto qua, tu mi darei conferma se ha perso l'amplificazione o meno, perché non sta lavorando come l'altro, ecco, l'altro è un pochino più spinto, credo. Sì, quello sì, però la timbrica è precisa e identica, non c'è nessun problema. È pulito, sì, è leggermente più basso l'amplificazione, però la timbrica è esattamente uguale, non c'è nessuna differenza. Sì, ma me ne accorgo. No, perché, allora, diciamo la verità che è stato controllato più volte, però non va, non spinge come quell'altro, ecco. Adesso rimane più basso questo qua, io me ne accorgo perché non sto spingendo, è come che per dire, non dico il processore, ma qualcosina in meno la tastatura, ecco. Sì, infatti è leggermente più bassa di amplificazione, però è bella, a me piace questa modulazione, è bella, pulita, chiara, giusto, leggermente più bassa dell'altro, come magari è regolato, ma è che vuol dire che con quell'altro microfono ti dà qualcosa di più, mentre invece con questo ti dà meno amplificazione, e a volte sai come... Sì, vedi, adesso non c'è. Vediamo di alzare un pochino, mettiamo a 30, ora, niente, 35, ora, nulla, no, non sto dando proprio di amplificazione, vediamo, passarlo appena, lo mettiamo come l'altro, ora. No, niente, non sta andando la amplificazione, io lo vedo perché i nesi sono fermi. Sembra che non ci sia il processore, quell'effetto lì dà. Pulita, però adesso è molto più basso, ma molto però più basso, non poco, ma molto. Giulio, sicuramente all'interno del... Scusatemi, un attimino. È come che ci si sia disinserito il processore, basso, sì, Tino, capito. Sì, riprendo io e devo uscire. Sì, lo sto provando, Natali, perché credo che questo microfono vada a scaldare qualche circuito interno e quindi va a perdere. Quando invece è freddo, l'amplificazione è bella. Adesso lo stacco e va bene. Dai, devo uscire un attimino a prendere mio figlio e poi se ci siete ancora riprendo. E ok, Tino. D'accordo, sì, a dopo se coincide di nuovo. Sì, così è andata lì, però la timbrica era sempre quella, è andata lì. La timbrica era perfetta, identica, non... solo che questa era più basso adesso. Sì, vabbè, questo è mio, e lo vedo che sta lavorando bene, va a 300 watt e quindi ho voglia che sta andando. Questo era grande, questo va benissimo, non c'è problema, questo è proprio la tua modulazione, quella solita, insomma, bella squillante, va benissimo questo. Giulio, guarda, solo mi fido la radio, perché questo microfono, mi trattengo 2 secondi ma poi devo scappare, questo microfono ce l'aveva una persona che ha fatto ore e ore di trasmissione e non gli ha causato nessun tipo di problema. Lo attacco qua, a entrambe le radio, sia al mio, al K, che a questo qua, fa questo problema qua, quindi non so cosa dire. Io ho un vecchio MC60, tu avrai conosciuto quelli della Trio, quelli con l'alberino, questo è uno dei primi che io ho avuto e mi sono tenuto, non ha nessun problema, l'altro invece è più moderno, più lucido, più cosa vuoi che ti dica, però non va come dovrebbe andare. Segno evidente che all'interno c'è qualche cosa che va a surriscaldare e va in perdita. Sì, ma sicuramente è così, evidentemente è proprio così, anche perché si è andando e abbassando sempre di più. Quando hai messo quello, poc'anzi, hai incominciato con una... volume di voce, e poi c'è andando e abbassandosi ancora di più, fin quando io non ti ho detto adesso sei proprio basso basso, capito? E qualche componente del circuito di preamplificazione che va in perdita evidentemente. Bene, devo scappare, scusatemi, a dopo, ciao ciao. Ciao Ti. Ok, ciao ciao Ti. Va bene, Natali. Allora, quelli si stavano facendo il conto a conto loro, no? Non si volevano risolvati. Vabbè, già è stato gentile comunque quando ti ha detto che era riservato il contesto. Sì, perché io ieri ho collegato Trieste e Palermo oggi, Trieste e Palermo, ed erano anche loro a T1 a T879. E questo è 1K Papa India 001 Palermo, e mi hanno risposto, però quelli che sono in conte, se no, deve essere, noi non possiamo partecipare, capito? Ho capito. E questo diceva 484, e poi quando quelli che si collegavano davano il numero, infatti io quello della Sardegna non me lo ricordavo, sì, cioè lo sapevo, però non ero convinto, perché non mi ricordavo bene se era 165. E il numero internazionale è 165. Io anche chiodo Arrugginito e anche Carlo siamo iscritti a questo Whisky Mike, che è della Sicilia, no? E praticamente abbiamo 165 Whisky Mike e poi il numero progressivo, capito? E ti rispondono quando fai così, ti possono anche mandare la QSL elettronica, capito? A proposito di Claudio Di Muro, se non l'ho più sentito, già sono un giorno senza sentirlo, ma forse quello modula la notte, modula tardi e fa agganci così di ex, probabilmente, non lo so, perché di giorno non l'ho più sentito, ma sono qualche mese che non lo sento. Manco io non l'ho più sentito. Io una volta l'ho trovato in banda laterale e me lo stava dicendo che anche lui era scritto lì, anche Carlo è scritto lì. Mi sembra che sia 102 lui, perché il primo che è stato scritto sono stato io. E poi Carlo sarà 103 sicuramente. Ok, sì. Io, no, l'ultima volta che ho parlato con Claudio, se ricordo bene, era quando lui stava parlando con Ossieri, se ricordo bene, sì, un certo Luigi di Ossieri. Ci ho parlato anch'io, mi ha sentito tranquillamente. A Ossieri, sì, Ossieri mi sembra che era, se ricordo bene, adesso non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che era Ossieri, perché lui parla molto spesso con questo Luigi di quella parte lì. Buonasera. Sì, Tonino, Tonino, tu sì. Capa, ciao Giulio, ciao Natalino, come so che chiamano. Ciao Tonino, amico Natalino, abbiamo acceso da poco, stavamo appunto ascoltando un po' di preparazione, poc'anzi, e ci stavamo appunto così consultando con Natalino, perché c'era questo che faceva Contex, però dice che era riservato ad una determinata associazione, basta. Infatti a Natalino l'hanno risposto che loro appartenevano a questa Alfa Lima o qualcosa del genere. Boh, adesso te lo spiega Natalino, vai Natalino. E Alfa Tango erano, dai. Ed era riservato a loro, siccome oggi è domenica, no, e stanno facendo questo contest. Stanno facendo, non è neanche internazionale. E il contest si chiama CQ Italia e sono stazioni italiane solo. Ecco, gruppo Alfa Tango, ma oggi è sabato, Natalino, non domenica. Tu sei abituato a dare un buongiorno non sabato quando è domenica. E il sabato e la domenica li organizzano, mi volevo dire quello io, questi contest. Però se internazionale ti rispondono, questo era solo a livello italiano e boh. Giulio, come ti arrivo? Grazie, sempre buono. Cosa ha detto Tonino? Non ho capito, è passata la propagazione insieme a te. Cosa ha detto? Se ti arrivo sempre bene di radio. La voglia si arriva bene. Solo che ci sono questi ogni tanto, grazie alla che se la pongo. Ma mi stanno arrivando con segnaloni stasera questi, questa gente qua. Caspita, boh. È bella sì la propagazione, ma tante volte quando parliamo fra di noi disturbano anche. Sì, la radio è buona, no? Non c'è problema. Tony, è un'ottima radio, è anche forte. Voglia, ce n'è. Mi prendi. Sì. No, perché come sono? Anatomia, perché l'altro non mi piaceva, è andato con massa. Allora, l'ho cambiata. Allora, di Tartarino, non c'è altro nessuno qua. No, negativo, c'era Tino poco fa. Io ho chiamato poco fa, mi hanno risposto, ma mi hanno detto che devo rubargli al fattango. Io, siccome non sono al fattango, li ho ringraziati e mi sono ritirato in buon ordine. Se lo credo che arrivano forte, Giulia. Perché quello che ho collegato di Palermo avevano a 5 elementi. Direttiva, io lo credo. E poi Cata, stanno tutti pompando, per quello che arrivano forte. Ma che canale eri, Giulio? Metta via. 27,680 era. Ma che canale alti? E per loro pompano poi. I 3,500, capito? Avanti giù. Ok. No, 27,655 la tariera. 27,655. Una banda sopra questa praticamente. Ed era quella la frequenza. 27,655 Tony. In USB però, Tony, USB. E non è 27,600 perché a me la banda sopra questa mi dà 27,500. No, deve poi girare, poi devi girare il canale, passi una banda sopra e arrivi a 27,655, se no con questa banda così non ci puoi arrivare a quella frequenza, capito? Tu sali di una banda, banda E se non sbaglio, e poi giri il commutatore e arrivi a quella frequenza, 27,655 USB. Aspetta, la sopra qui, ecco. Così deve essere anche migliore. Sì. Una banda sopra e banda E, da parte mia. Perché sono una banda D, poi fa E, poi F. Sì, una banda sopra così. E adesso devi salire con il commutatore dei canali, giri e arrivi a 27,655 e metti USB e loro sono lì. Ecco. Confermi che adesso la radio è migliore, Giulio. La radio è ottima, è sempre buona, no? Non c'è che dire, Tony, è sempre buona, anzi forse è anche migliorata questa. Beh, non la tarì. Boia. Ho passato a metà, va bene adesso come radio. Boia. Ok, aspetto con che mi perché non me la funziona. Andrà bene, ok. E quindi niente, non c'è altro nessuno, tutti quanti a naso. Io non ho sentito, vabbè, ho acceso 10 minuti o 4 ore fa, non lo so prima se c'era qualche un altro. Però ho fatto una passatina sui canali, ho trovato a Tino, prima canale 38 e poi canale 1, che stavo facendo di ex. Non sono entrato a disturbarlo, l'ho lasciato fare, perché lui stava collegando fuori, stava collegando e dunque poi è passato qua a Tino e ci ha sentito, è entrato qua. Appunto, non era il caso che io entrassi a salutare Tino quando lui stava facendo collegamenti, per cui ho lasciato lavorare, capito, Tony? Niente, io un po' di giorni che non accendevo perché proprio il tempo rare, quello, quell'altro, io staccavo il PL, l'antenna, il commutatore, non ne voglio sapere, capito? Mi guardavo la TV e non rischio il baracchino quando c'è temporale. Perché i baracchini li ho comprati con i soldi di miei con tanti sacrifici, e quindi e a me che si brucia con un banale fulmine, sappiamo già questa cosa, io stacco tutto e sono più tranquillo. Certo, sì, e beh, lo faccio anch'io, ma non solamente il baracchino, io stacco tutto quando c'è il temporale, ad esempio anche se la notte vedo che c'è il temporale, prima di andare a letto cosa faccio? Stacco tutto, anche la televisione, non mi tengo niente, il computer, tutto stacco, perché a me mi ha già fregato una volta, Tony, a me una volta il temporale mi ha rotto quattro cose, non uno, quattro, un colpo, il router del computer, primo, due baracchini e un alimentatore mi aveva bruciato, così di colpo, e mi è dispiaciuto soprattutto un baracchino nuovo, ma nuovo di zecca, appena comprato, è rimasto il fulmine e me l'ha bruciato, purtroppo è andata così, pazienza, mi prendi? Io mi ricordo sempre dalla falta di tempo dietro di Bacco, che ci aveva quel palo di pulire al vento, aveva messo l'antenna, non so se era 20 metri, ma praticamente il fulmine l'ha preso l'antenna, ha percorso tutto il cavo Reggiotto, non solo il baracchino, l'ha bruciato anche mezzo salotto, quindi da lì, ok, stacco sempre tutto. Avanti, Natalia. Sì, cappa, gira gira, me ne vado a vedere se sento qualche cosa là fuori e vedo un po' di collegarne qualcuno. No. Io vedi, non so se rifarmi la casella postale, P.O. Box, non lo so. Ma io non ne ho, li collego e boh. Non mi interessa le QSL, mi interessa Emiliano il rapporto e boh. Perché se no dovrei farmi anch'io la casella postale oppure me la mandano via email elettronica. 06030, mi ricordo ancora la sigla di Florinas, e mi arrivavano lì, e una volta alla settimana facevo una scappatina in macchina e mi ritiravo la posta. E più o meno ho capito perché. Hai parlato insieme a Natalino, ma è passato Natalino. Quindi ho capito il finale, e già ho capito tutto il discorso più o meno, Giulio. Allora non c'è bisogno che te lo ripeta. Sì, sì, sì, è così, Tony. Tornando al discorso poi fulmini, mi ricordo a Emanuele Ponzio Pilato, che sicuramente l'avrai conosciuto anche tu, ormai deceduto da una decina d'anni, e abitava in campagna, lì confinante con la campagna di Natalino. Un fulmine una volta gli ha fatto il contattore della luce, l'ha fatto a pezzettini da un centimetro l'uno, ma proprio esploso, completamente esploso, e poi gli aveva bruciato anche la pompa del pozzo, quella che tirava l'acqua dal pozzo, una cosa mai vista, Tony. E il fulmine sono milioni di volts, di parte, come vuoi chiamarli, ma sono volts, li brucia tutto. Ma mi sono, il prof. Antonio tempo fa, ero ragazzo, io un fulmine, ho preso un albero, l'ha tagliato in due, un pezzo carbonizzato, ma anche quella motosega era, vai, meglio niente. Bene, Natalino sta dicendo che se ne va in altri canali, si vuole fare un DX. Ok Natalino, non c'è problema. Fatti un bel DX, fai quello che vuoi, io ripeto, non riesco a fare il DX perché se non c'è casella postale mi piace anche confermare la QSL. Siccome sono cambiati i tempi, quindi no, non mi interessa neanche più tutto qua. Al limite posso collegare qualche duro, parlando a papale papale, così come il tempo, eccetera, eccetera, tutto qua. Ma lo sai quanto mi hanno detto che mi volevano mandare la QSL, però il nominativo internazionale ce l'ho adesso, mi trovano nel cluster, quindi me la mandano elettronica. Con questo nominativo per forza me la mandano, perché mi trovano. A me mi è successo tanto tempo fa fare un IX e dare l'iniziale mia, stazione Sierra Tango. È entrato uno da, non so se era Viterbo, dove cavolo era, e si è incazzato, mi ha detto tu non puoi usare questa sigla perché io appartengo alla Sierra Tango, quella quell'altro, ho detto scusa, tu sì, dove sì, io sono in Sardegna, Sierra Tango sono i miei iniziali, se non ti va bene fai quanti male piaci. Tonino, vuoi usare che Sierra Tango tu? Sono le iniziali mie. Allora fai una cosa, penna e carta ne hai, che ti dico nominativo io. Mi devi dare un secondo perché la carta ce l'ho, ma la penna non ce l'ho, aspetta. Pronti, Natalino? Allora, scrivi 165 Serra Tango e non c'è bisogno manco che dici che è della Sardegna, perché 165 è il numero internazionale della Sardegna. 165 Serra Tango, il nominativo tuo internazionale. Molto ci vuole. Mi lascio fermo. Insistisco 167 Sierra Tango, ok? 165 Sierra Tango. Vabbè, che io cosa ho detto? No, hai detto sbagliato. 165 Sierra Tango. Operatore Torino. Oh. Ecco, 165 Sierra Tango. 165 165. Ma non ci tengo a diventare così. Dici, tu devi dire così e sei a Pucci. Anzi, se passiamo a 27555, faccio chiamata io, e siccome io sono iscritto a un gruppo, e quindi il mio nominativo è ancora più lungo. Però tu lo senti, sai che sono io. Buonasera. Scappa, per me non c'è problema. Giulio, che fai? Vieni? Sì, certo, sono curioso. Certo, sono curioso. Dove andiamo? Dove l'abbiamo poco fa, Natali? A 27.655? No, 27.555. Canale 12 è... è quello di chiamata, poi se ci dicono di spostarci ve lo dico io, anche se lo dicono in inglese dove andare. Ma Uniform Sierra Bravo o Lima Sierra Bravo? No, Uniform Sierra Bravo. Capa, Uniform Sierra Bravo, perfetto. Vabbè, là, sto andando lì. Ok Giulia, io Natalino, sì, Natalino, Tonino. Oh. Attenzione sul canale 10, capo. Attenzione al canale 10, capo. Ora, ora, attenzione sul canale 10. Natalino, sei tornata qua? Tonino, ci sei? Tonino, Natalino. Tonino, Natalino, Tonino, ci siete? Io ci sono, Tonino stava entrando in quei canali. È tutto pieno di Gontes, non si può modulare anch'io. Sono qua, sono qua. Cazzo, ma c'era un affannatore di Gigi, vedi lì. Mamma mia, quanto macello che c'era. Comunque, Natali, io ti sentivo, ma eri fuori frequenza rispetto a me. No, no, io già sono in frequenza. A me mi sentono benissimo quando parlo. Tonino era fuori e mi sono spostato per sentire bene a Tonino. Perché se io sono in frequenza già sono centrato, mica non stavo usando questo qui, già con questo qui sono centrato lo stesso. Allora io, Natali, per centrare lui non ero centrato con te, infatti mi spostavo leggermente. A lei ci arrivavo Santiago 9 e 5. Già lo so, già lo so. Allora. Io stavo usando un altro apparecchio, non stavo usando questo, no, per andare là. Tieni. Con questo lo stesso arrivo benissimo. Però questo lo uso per qua. Comunque devo ricentrare a te un poco. È ovvio che ci spostiamo un pochettino perché tutte non sono uguali, capito? Quello che trasmetteva l'ho centrato ed ero leggermente fuori frequenza, ma di poco mi. Tutto qua, hai capito Giulio? Sì, ma tu stai usando un baracchino come questo. Quelli lì stanno usando tutti apparati radioamatoriali e giustamente se ne accorgono subito quando sei fuori. Perché sono più stretti. 4.90 lo sentivo e io posso regolare a un Hz alla volta addirittura. Io per me era fuori, non rispetto a me. Ma chi io? Sì, Natalia, eri fuori, rispetto a me tu eri fuori. mica stavo usando un apparecchio come si deve io, ed ero centrato, a me mi rispondono tutti e non me ne dicono che sono fuori. D'accordo, io sono d'accordo con te, l'apparecchio come si deve, però evidentemente non è regolato bene, qualche cosa c'è di differenza, io dico che è spostato, poi perché io ho parlato tante altre volte ed era sempre a numero pieno, proprio senza nessuna differenza, proprio niente, nessun decimale, ma più di uno, più di due, più di 10 e 20, perciò per me è fuori, per conto mio, poi io non lo so. Ero fuori perché stavo cercando a Tonino, non hai capito, mi sono spostato io, perché sennò a Tonino lo sentivo fuori, questo qui è più stretto, quello lì è più stretto, l'apparecchio, te ne accorgi subito quando uno è fuori, quando io sono a 00, tranquillo, io sono a 00. E a me Giulio, come mi ascoltavi? No, io a te non ti ho ascoltato, Tony, non ti ho ascoltato, perché c'era tante di quelle sovramodulazioni che non capivo proprio niente, ma una decina di persone, uno sull'altro. Ma sì, infatti in effetti io ascoltavo solo Antalino, per ascoltare che sta parlando solo Antalino, dopo che più avanti sono entrato io. Capito? No, io non, a te non ti ho ascoltato, la verità, però Natalino, ripeto, era almeno 10 S fuori rispetto a me, poi se dipende da me o dipende da lui, questo non lo so, so solo che l'ho centrato meglio con 10 S sotto, non sopra, sotto. Addirittura, no, io mi spostavo per Natalino a 1 o 2 S, non di più, e capita 10, Natalino, un meme. Asco, la remora bruva ai noghi, metto quell'apparecchio su questa frequenza, lo metto a zero, siete voi dovete cercare a me, io non mi sposto e io sono centrato, perché io a te ti sento male, Tony, se non ti cerco non ti sento, infatti io mi sono spostato per cercare a te. Io mi sono spostato di 2 kHz, cioè 2 Hz, non di più, Natale. Solo di 2, leggermente a sinistra mi sono spostato e ti ho beccato al centro. Perché io sono centrato, Catu, Asco, mi troviamo qua, andiamo in USB, con questo qui stesso di un vostro video. Dai, 27075 USB, ok, esecutivo. Vediamo, dai. Oh, Natale. Giulio. Attento, dottore, se mi ascolti. Dottore, ci sei? Dottore, attenzione, dottore, se mi ascolti.